24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Fulvio Pierangelini, il mostro sacro della cucina italiana, il miglior cuoco al mondo secondo Le Figaro. Celebre, celebrale e sensuale. Il suo ristorante, il Gambero Rosso, è stato per quasi 30 anni il punto d'arrivo per i gourmet di tutto il mondo. Mesi di attesa per assaporare i suoi piatti più famosi. Lui, tutti i giorni lì a cucinare, prima per 36, poi per 18 coperti. Un giorno ha detto: voglio vivere la cucina ovunque nel mondo. Ha lasciato il Gambero Rosso, la moglie, San Vincenzo, l'incubo di fare tutti i giorni sempre gli stessi gesti, due volte al giorno, hanno detto, è impazzito. È scappato con una ballerina russa. Allora, Pierangelini, con una ballerina russa? Non lo so, ma scappato sì, finita la magia. Finita l'emozione più che la magia, sì. La ballerina russa no, No. Ma c'è una ragione per cui è finita questa magia o no? Ma non sono le pressioni, non sono state le... Nessuna cosa sconvolgente, era solamente un percorso che forse si stava esaurendo e l'ho voluto anticipare la ho voluto mantenere il ricordo migliore. Ma cucinare al suo livello è un'arte? Ma non credo, no. Sicuramente no, è un'arte effimera. Beh, io sono un artigiano sicuramente, lavoro con le mani. Però glielo chiedo perché... Lei ha detto che quando si mette a cucinare ha lo stesso approccio mentale che aveva Visconti quando girava il Gattopardo. Insomma... No, ma non è proprio così. Diciamo che c'è una cura di particolari, un'attenzione assoluta anche a quello che non si vede. Questa era la piccola metafora. Però un Gattopardo tutti i giorni. Due volte al giorno. Non è poco, E quando i francesi hanno detto che lei è il miglior cuoco del mondo, ecco, detto dai francesi, che effetto ne ha fatto? Svenuto? Un po' svenuto, sì, sicuramente, perché comunque è un'emozione. La Francia è sempre stato il riferimento, almeno a quell'epoca, della grande cucina, quindi essere amato dai francesi e oltretutto senza distinguo, mentre in Italia è il più bravo, però è antipatico, è arrogante, ma è presuntuoso, però. E loro invece è il miglior cuoco del mondo, basta, punto, fine. Se di lì in avanti, ecco, per me va bene, insomma. Certo, se non c'è altro. Ma ha avuto un maestro o una maestra in cucina? No, ho avuto un talento sicuramente che mi è stato donato e che si è scoperto strada facendo. Sì, ho sempre cucinato, ho guardato i cuochi classici quando durante il mio periodo di per pagarmi la scuola, l'università, io lavoravo, però non ho mai fatto nel cuoco, nel cameriere. Facevo l'istruttore di vela, ma passavo ore e ore in cucina, ho visto questi cuochi solidi e lì ho imparato. È un mestiere che si ruba con gli occhi, insomma. Poi sono stato un attimo da Roger Verger, che una settimana, questo è stato l'unico mio... apprentissage. Sì, l'unico mio apprentissage. Qualcuno dice, oggi qualcuno si vanta che io abbia fatto gli stage da lui, ma non è vero. Non è vero. Ecco, ma qualcuno come allievo invece lo riconosce? Ma diciamo che io più che allievi, il mio... No. Un grande maestro non ha, il migliore dei maestri non ha allievi, suggerisce ipotesi. E io ho suggerito ipotesi e tanti hanno seguito queste mie cose e gli allievi li scopro giorno per giorno. C'è un giovane. Li riconosce in quello che fanno. Ecco. No, ce n'è uno solo. Chi? In questo momento è Lorenzo, il mio fedele secondo, che lavora con mio figlio in questa spiaggina in Toscana, e lui lo riconosco. Gli altri sono tutti, però li voglio bene. Poi c'è un ragazzo che aprirà presso un ristorante, si chiama Matteo Baronetto. Gli auguro tanta fortuna, non abbiamo mai lavorato insieme, ma lui... Ma è un rivale? Un rivale ce l'ha. Uno che dice no, quello no, però, non ho rivali. Quello però, ma no, no, non ho mai... più bravo di tutti, ma non no, può non avere rivali. Non ho mai giocato a questo gioco. Ma un piatto riuscito è come una performance viva che muore praticamente un istante. Qual è il momento più bello in cucina? È il momento in cui entri in cucina perché è una necessità, il momento dell'urgenza di andare a cucinare. E poi come si evolve il piatto? È come l'ispirazione, insomma. Sì, e poi finisce. Poi il piatto è finito, non va ritoccato perché perde energia. È finito è lì. È come viene. E non ha possibilità di essere... Ma conta anche la vista o solo l'ho fatto per dire che è un piatto riuscito? Ma in cucina è importante la vista, l'olfatto, ma anche l'udito. Se senti sfrigolare in maniera sbagliata, vuol dire che quel piatto non sarà, che c'è un errore. Ma conta l'emozione. L'emozione. Ma lei all'Università di Parma ha insegnato addirittura estetica e creazione gastronomica. Non è un po'... tanto. Vabbè, dovevamo dare un nome importante a un cuoco, no? Un cuoco che insegna. Senta, ma ha spiegato agli allievi, però questo sì, che gli spaghetti al pomodoro sono un piatto che impone al cuoco di toccare le vette del gusto. Ma questa è una delle storie che un po' che mi sono inventato, però è anche vero, racconto anche che bisogna accarezzare i pomodori, che loro sono più buoni, sono più contenti. Però sicuramente in uno spaghetto al pomodoro tu ti metti di fronte a un challenge che non è solo gastronomico, ma ti metti di fronte ai ricordi, ai momenti struggenti della tua famiglia, la zia, la nonna. Certo. E quindi se ma vuoi... però uno spaghetto al pomodoro firmato Pietrangelini, che cos'è? Com'è? È un piccolo sogno, oppure un... è un mio, il mio vabbè, spaghetto, è lo spaghetto al pomodoro. Al pomodoro di Pietrangelini. Ma il ristorante, il suo ristorante Gambero Rosso, è diventato anche il marchio prima di una rivista, poi di un canale, roba sua o no? No, diciamo sono stato un po' la loro musa ispiratrice, ma non... Senza royalty, in parallelo sempre con questi cari amici, ma niente di più. Senta, lei è stato il primo a capire però che la cucina poteva diventare come la moda, e gli chef dei grandi stilisti, poi improvvisamente invece... quel mondo è andato, lei non c'era. Ma per me quasi tutto quello che ho fatto aveva un senso etico, morale, gastronomico... storico, culturale, non ho mai pensato ai soldi, non mi interessava. Soldi. Quindi i suoi colleghi scrivono libri, fanno programmi, sono diventati opinionisti, insomma non c'è rammarico. Nessun rammarico, nessuno. Assolutamente. Ma fenomeni per esempio come MasterChef, lei come li giudica? Come noi due ricordiamo, se lei ricorda bene, nel 1982, cioè 32 anni prima di MasterChef, noi abbiamo fatto il nostro primo programma che si chiamava Che fai mangi, su Rai 2. Avevamo uno share, non c'era per fortuna, perché di là c'era Raffaella che contava i fagioli e quindi noi eravamo disperati. Però era ancora la televisione dove il bianco sparava, insomma, quindi adesso è tutto diverso. Ma adesso parlando di MasterChef, sembra addirittura che ci fossero le scommesse sopra, tutto uno show, è un passo avanti o no? Ma noi stiamo assistendo a dei grandi fratelli che cambiano argomento da troppi anni. E non fa bene alla cucina, nel senso che... Ecco, non fa bene alla cucina questa trasformazione in reality. Beh, la cucina è un'altra cosa. La cucina è amore, passione, rispetto, emozione, sacrificio. E quindi in tutto questo c'è qualcosa che le piace? Non è però anche in Francia ha fatto dei programmi di successo. Ma io ho fatto un programma, ho fatto un documentario che... Però è un altro tipo di... In seconda serata sulla Rai 3 francese... Abbiamo fatto 6 milioni di spettatori la prima volta e 4 milioni poi. Senta, ma perché dovremmo appassionarci adesso alle alghe fritte? Ma no, noi non ci appassioniamo alle alghe fritte. È meglio non appassionarci. Ma no, noi dobbiamo raccontare solo emozioni, dobbiamo raccontare la nostra storia, da dove arriviamo. Le alghe fritte è un po' malato, insomma. Ma no, sono ma sono... Non c'entrano. Io le ho viste tutte, capisci? Lo so, per questo che glielo chiedo. È tutto scivolato come l'acqua sulle anatre. E adesso si ritorna all'essenziale. Sì, adesso è ora di riprendere. Ecco, lei ha studiato scienze politiche, voleva fare altro all'inizio. Beh, io sognavo di fare l'ambasciatore, però non avevo due cognomi, politicamente ero impreciso, per cui era difficile per me. Politicamente poi... impreciso mi piace. Però sognavo Versailles in realtà, non sognavo certo di dirimere le ansie del Kosovo. Del Kosovo. La letteratura? Ha una passione per la letteratura? Lei. Beh sì, sono cresciuto con i grandi romantici, e Hamsun, queste robe qui, quando lui, lasciato da una ragazza, dice che la mia lama sia tagliente come il tuo ultimo no. E ancora sono rimasto qui. Oggi rileggo con gioia... Rileggo con gioia Céline, rileggo con gioia il Petit Prince quando sono triste. Ma la sua carriera in cucina è stata una vocazione o un caso? Un amore, un colpo di fulmine. Chi gli ha detto per primo, sei un talento? Perché uno c'ha sempre incertezza quando comincia, anche se ha un grande amore, dice ma sarò capace? diciamo le mie prime, chi è per primo ha assaggiato le mie una cose, una fidanzata, sì. Però poi il primo di tutti è stato Veronelli, che è Gino Veronelli, che è il padre di tutti noi. Ma servono o no le scuole per imparare, o si ruba con gli occhi in cucina? Non vorrei parlare delle scuole alberghiere, troppo noioso. Vorrei dire che io dico alle mamme che mi chiedono cosa deve fare mio figlio. Che sono tante oramai. Io gli dico che facciano un liceo e che poi il sabato e la domenica vada in campagna da una vera massaia a imparare la cucina. Ecco, si parla infatti molto di cuochi e di chef e poco di cuoche. Perché? Ma in realtà la cucina è una storia di donne. È la donna che detiene il gesso, è la donna che detiene... Quando... Ma come mai sulla... Perché siamo usciti noi e, con un ego spropositato, perché molto spesso il lavoro è duro, ma quando le donne riprenderanno la loro ruolo di donne, perché oggi le chef donne ragionano come un uomo, quando riprenderanno la loro femminilità la cucina tornerà a loro. Un po' l'ha detto prima, ma anche la cucina, ci sono le mode che passano, tortellini alla panna, filetto al pepe verde negli anni 80, rucola e branzino negli anni 90, pistacchio di Bronte, lardo di Colonnata, adesso il sushi, domani si ritorna da capo? Ma a parte queste banalità poi ci sono ancora argomenti più vari stili di cucina, però Cocteau diceva che una poesia di Baudelaire è morta quanto Baudelaire lavorava per l'avanguardia, una poesia di Rimbaud è viva perché Rimbaud lavorava contro l'avanguardia. A Gambero Rosso, a proposito di contro l'avanguardia, dagli anni 80 si mangiava con pochi soldi e per gli operai della SIP c'era addirittura una mensa a prezzo fisso. Ecco, che cosa è rimasto dentro di quella cosa fantastica? Beh, è rimasta l'emozione che io volevo cucinare e guardare il tramonto a quell'epoca, e quindi ho trovato questo ristorante sul mare che dava e cucinavo, questa emozione complessa. E cucinare mi era una gioia, era indipendentemente. Sì, ma lei ha fatto una cosa pazzesca, è passato da 36 a 18 coperti sperando di arrivare solo a 2, pazzo, sostanzialmente pazzo. Sì, ecco. La prima star mondiale della cucina adesso ha scelto una strada completamente opposta. Consulente gastronomico dei relè del Gruppo Forte a Roma, a Sciacca, in giro per il mondo. Perché? Potrei dire sopravvivenza sarebbe brutto, però ho imparato molto, devo molto a Roccoforte e anche se molto spesso stropicciano la mia vita, stropicciano la mia cucina. Va bene questa va vita. Bene, dall'artigianato all'industria, insomma, però anche Armani ha fatto questo percorso un po' alta moda e poi gli store, siamo un po' lì su analoghi. Beh, insomma, diciamo che ci sono dei miliardi di euro di differenza. Ma non è mai troppo tardi per quello. Le dispiace di non aver inventato lei i titoli, che in fondo col suo nome era un passo, era lì, l'idea era proprio. Ci siamo incrociati molte volte nella vita, ci incrociamo quasi quotidianamente, però credo che va bene strade parallele, ma meglio non incontrarsi, anche se sono un grande amico e stimatore di Oscar Farinetti. Sì. Però si dice che adesso lei vuole tornare indietro, aprire a Roma un ristorante, anzi un atelier, anzi non so cosa, una cosa che non si sa bene cos'è. Forse una bottega. Una bottega? Cioè, mi racconti, bottega... una bottega che? Ma una bottega rinascimentale, una bottega dove si incrocino varie esperienze, arti, artisti, però c'è anche una necessità economica, per cui forse poi venderemo anche qualche piatto di pasta, spaghetti al pomodoro. Ah, spaghetti al pomodoro, quelli là. Però mi interessa un attimo ritornare sul discorso delle mamme, i consigli che dà le mamme per tutti questi ragazzi che vogliono fare i cuochi, perché le scuole, purtroppo è un discorso noioso, ma sono passate da 223 a 348, è solo un effetto televisivo, diciamo, di miti, oppure... Oppure cosa? Perché troppi ragazzi credono che fare la scuola alberghiera li porterà poi in televisione e li farà guadagnare tanti soldi. Io vorrei raccontare invece storie di rispetto, di sacrificio, di emozione, di coraggio, di cultura. Ma la cucina regionale italiana è un patrimonio da conservare, da coltivare oppure no? Cioè queste differenze. Ma queste differenze sono bellissime, perché poi vengono da situazioni socio-economiche, la mezzadria che ha completamente inciso sulla gastronomia, le varie forme di lo Stato Pontificio, la Sicilia, le dominazioni, sono cose bellissime da ripensare, da rivalutare. Che si sono incrostate nel modo di mangiare, quindi nell'invenzione sì, dei piatti. Diciamo che il terroir non lo devi far sentire, io speravo di non far sentire il terroir facendo una ricetta tipica, tu dovevi chiudere gli occhi e sentivi il territorio, sentivi la tua terra, senza fare caricature o piatti solo della tradizione per una banderuola, insomma. E quindi in questo non so cosa, in questo atelier che lei vuole aprire a Roma, no? Non lo so. Ah, ancora non lo sappiamo, siamo ancora lì. Forse Parigi non lo so, gira il mondo, ma va ancora in giro a cucinare ogni tanto per qualcuno o per qualche posto. Beh sì, faccio delle cose divertenti tipo? Nel mondo. Ma tipo, che mi ne so. Racconti la più divertente che ha fatto ultimamente. Non posso. Racconto un'altra. Ma quella era d'amore, ho capito. Ma no. Beh no, sono un regalo ogni tanto, un regalo per un compleanno. L'ultima è stata, se vuole un nome famoso, sono stato regalato dalla moglie di Cheryl Belair per il 60° anniversario del marito. Ah. Era il regalo della signora e ho cucinato per lui in campagna, poi mille altre storie. E c'era anche la moglie di Murdoch? Io non l'ho vista. No, non lo so. Senta, in una bella, bellissima intervista a Cazzullo sul Corriere della Sera, lei ha raccontato di un nonno morto male, forse pazzo, forse genio, forse tutte e due le cose insieme. Ecco, lei un pochettino si sente così? Sì, questo è un fantasma che io ho, ma io lo sono assolutamente e sono contento. Ma un fantasma? Un fantasma non lo so. Perché? Non lo so, perché mi torna fuori e anche se... Cioè un nonno che non ha conosciuto... In casa non sono contento di questa cosa, però credo che sia un fantasma. Non lo so, però sicuramente se sono un po' pazzo mi piace. Ti piace? Non l'ha conosciuto questo nonno? No. Senta, le faccio un'ultima domanda. Ma ci vuole talento per invecchiare senza diventare adulti? Mi sembra che lei sia un bel prototipo. Beh sì, questa era una delle mie frasi preferite. Questo è Jacques Brel che dice la feuille du talent pour être vieux sans être adulte. Esatto, ce l'ha fatta, ce la sta facendo. Beh insomma, senza grandi sacrifici, devo dire che mi viene naturale, spontaneo. Ma con quale segreto? Qual è il segreto in realtà? Il segreto è trovare sempre nuove emozioni. Grazie. Grazie. Grazie mille. Mix 24. 800 24 00 24 il numero verde, SMS 349 238 6666. Mario, titolo dell'intervista, il faccia a faccia con Pietrangelini? La poesia della cucina. Pietrangelo? Viaggio al termine della cena. Vabbè, citazione di Céline. E gira il vento, grande cambiamento, ci rimettiamo in movimento e saliamo sull'onda, l'onda, più positivi, sorridenti e vivi, rigidamente permissivi, trasportati dall'onda. Allora, Pietrangelo. Allora l'onda di Enrico Ruggeri, un brano che sta avendo un grandissimo successo soprattutto perché ci abitua alla disobbedienza adesso che tutti cavalcano l'onda. L'onda, e quale sarebbe qual l'onda? È l'onda? Il conformismo! Un artigiano che oltre alle mani lavora anche col cuore, è un artista, Andrea, che parla di Pierangelini. Eh sì. Abbiamo le bolle. Come bolle. Occhio alla moneta, ragazzi, in tutti i sensi. Allora, l'euro, lo sapete, sta volando ai massimi da ormai 2 anni sul dollaro. Stamattina l'ultima rilevazione che ho io qua sul mio schermo è 1,3864. Leggerissima flessione, ma sempre molto alto. Quindi abbiamo un euro molto forte. Abbiamo la deflazione. La deflazione, ne abbiamo parlato parecchio. abbiamo la deflazione. Scorsa. Ma senti, adesso arriva. C'è la deflazione, sta arrivando, senti cosa dicevano prima. Gran parte del calo dell'inflazione, escludendo alimentari ed energia, arriva in realtà dai quattro paesi che hanno usufruito dei salvataggi: Spagna, Irlanda, Portogallo e Grecia. Per cui, in ultima analisi, questo indica un relativo aggiustamento nei prezzi in corso, piuttosto che veri e propri fenomeni di deflazione. E come la mettiamo? Il presidente della BCE ovviamente fa il suo mestiere, non deve introdurre elementi di tensione o di panico, però insomma la BCE sta preparando, ulteriori per contrastare la deflazione che sta prendendo piede nell'Eurozona nonostante l'euro forte pesi sui prezzi. Allora, cosa facciamo? Facciamo sentire la canzone di Sara Tardelli. Qual è, Sara? Io mi Sara, questa è dedicata a Pietro Angeli, è certo, semplicemente perfetto. Perfetto. Mario? No, io mi dimetto. No, volevo solo dirvi che a proposito di inflazione, così per riportarvi sulla terra dopo tutti questi piatti di pasta. Guarda che sta pasta al pomodoro ci è piaciuta. Che nell'Eurozona la BCE prevedeva il 2% di inflazione, siamo in realtà allo 0,8. Diciamo che è confermato che l'economia è la cosiddetta scienza triste. Detto questo, c'è qualcosa di più triste. Senti qua. Abbiamo un problema Prodi. Prodi non è un problema, ma è un'opportunità, perché io sono arrivato a capeggiare l'Ulivo per dare una nuova faccia al paese. Sebbene i miei nipotini mi considerano Superman, io non sono Superman. E quindi però non lei si traveste nessuna da Superman bacchetta. Per i suoi nipotini, quindi sì, mi travesto, lo alimenta. Ieri c'è stato un applauso, c'è un consenso evidentemente bipartisan. Ma credo che la cosa importante è per l'appunto che è stato un successo dello Stato nel suo complesso. Certo che i soldi ci sono, il punto è dove si mettono. E tutti da Vespa, tutti a Porta a Porta. Allora, anche ieri Renzi ha detto: se non arrivano i soldi entro il 27 maggio, io sono un buffone. Oh, sì. E lo dice dove? In Parlamento, a Palazzo Chigi, a casa sua? No, da Vespa. No, vabbè, dai, l'ha detto dappertutto. Scusa, ha preso un impegno con tutto il paese. Cosa vuoi insinuare? Non che è andato lì per anticipare poi l'epifania della buffoneria? Non lo so. Qualcosa succederà. Io dico solo. Ma di poi, Porta a Porta. Scusa, parliamo uno per volta. Mi sembra che sia andato dappertutto Renzi, quindi anche a Porta a Porta. Io colgo una contraddizione. Colgo una contraddizione, perché se Renzi proclama a gran voce che il nemico è colui che dice "si è fatto sempre così", proprio lui fa come tutti fanno, ma certo. Va la Vespa. Io ho una mia idea. È che nessuno è perfetto. Io penso. Allora, l'ultima cosa che voglio dire, poi chiudo l'argomento, è che secondo me si nutre di presidenti del Consiglio, perché loro passano, lui resta, anzi, Vespa. Capito? Vabbè, dai, no, anche Cazzullo ha intervistato tutti. No, vabbè, è normale. Cazzullo intervista tutti. Dai, è vero che Vespa si prende Cazzullo. Il Salamino di oggi è l'omaggio a un grande, straordinario novantenne, Emanuele Macaluso. Io manco il tempo stamattina, leggendo i giornali, di chiedermi: sarà successo qualcosa se Balzac si occupa non più del Cavaliere ma di Matteo Renzi, che mi imbatto nel paginone di Repubblica, dove Concetto Vecchio fa una bellissima intervista a Emanuele Macaluso. Novantenne, straordinaria figura, testa raffinatissima, è quello che meglio di ogni altro spiega come l'avventura più entusiasmante del Novecento fosse la politica. Vorrei, sulle note di questa pagina sublime, la cavalleria rusticana, affidare all'ascolto la frase finale dell'intervista. Mostra la fotografia di Lina, slanciata con un vestitino quasi corto in un pomeriggio d'afa di 70 anni fa, e dice: era molto bella, davvero molto bella. Dopodiché il silenzio ed Emanuele Macaluso che accende in un lampo di malizia il suo sguardo di severo dirigente comunista che fu, dice: ma io ho sempre avuto donne belle. Certo. Un tocco di sicilitudine. Tanti auguri a Emanuele. Tanti auguri. Vabbè, non voglio dire su... Io sto bene, tutto a posto. Stai dimagrendo, faccio palestra, le mie cose e ogni tanto vado in macchina. Senti. Questa era una Jaguar, eh? Certo, non poteva essere una Fiat. Ma il rombo di una Tesla, tu l'hai mai sentito? Senti. Niente. È un'auto elettrica. Fantastico. Ma come è possibile? Allora, però c'è l'altra faccia della medaglia, e cioè l'auto elettrica, che tutti dicono non inquina, quindi bisogna incentivarle, sì, ma nelle batterie c'è la grafite viene estratta in Cina ed è un enorme problema, perché queste miniere fanno quello che si dice buttafuoco, ascolta, pollution, ossia inquinano le falde acquifere, l'aria attraverso in Cina. E la terra attraverso le piogge, sì, in Cina. E le autorità cinesi stanno chiudendo decine di miniere che non sono in regola. Quindi, come vedete, quindi, se questa Tesla ha degli altri problemi. C'è degli altri problemi. Come sempre, essere troppo verdi poi fa ingiallire in qualche maniera nella scala cromatica. Dopodiché ci occupiamo di un argomento che piace tanto a Pietrangelo e anche a te, Giovanni. Senti quest'audio. Senti, so that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Fuck the EU. Questa era la Victoria Nuland, che è il diplomatico americano che si occupava del caso Ucraina e parlava con un suo corrispondente americano in Ucraina e insomma ha mandato a quel paese l'Europa. Nel frattempo oggi Kerry e Sergei Lavrov, rispettivamente segretario di Stato americano e ministro degli esteri russo, si incontrano a Londra per cercare di evitare la crisi. All'ultimo momento, siamo alla vigilia del voto in Crimea, parlo del referendum sulla secessione. Ma io cosa penso, ne pensi? Ma io penso che non ci saranno dei problemi di guerra lì. No, io penso che faranno la secessione e via. La Pietrangelo? Crimea sarà russa. Ma Lavrov ha proposto anche una terza opzione, e cioè quella di stare vicinissimi, ma senza l'annessione. E questo potrebbe essere ancora più un meccanismo ancora più efficace, perché apparentemente subdolo, ma come si suol dire, è l'alito che si sente sul collo. Beh, però diciamo che tecnicamente è meno traumatico rispetto al voto della secessione. Certo. Anche se secondo me i russi lo vogliono per dimostrare che c'è un principio di autodeterminazione, no? Che è molto importante poi nella diplomazia internazionale. Chi si sente di voi un supereroe stamattina? No, guarda, grazie alle letture ci siamo fermati allo Übermensch di Nietzsche, quindi Nietzsche, queste americanate non le vogliamo. Io invece le voglio, vai. Era la sigla di Superman, sì. L'avrete riconosciuta tutti, fa parte, nonostante buttafuoco, della mitologia e dell'immaginario dell'Occidente. Cioè, intanto Alfonso, sì. Mi dispiace per Pietrangelo, scrive: forse abbiamo trovato uno di noi e lo abbiamo messo al posto giusto, Renzi. Bella magia. Hai visto? Va bene, ma come questa. Si suol dire... Ma voi perché dici citate Renzi? Si impara. Vabbè, Renzi, vai. Superman, vai. Quindi Renzi sarebbe questa cosa qua? Ma quando mai? Vi sto parlando di una cosa serissima, la battaglia tra la Marvel e la DC Comics. Sono impegnate in una battaglia davvero titanica, perché vedrete gli incassi di questa cosa. Marvel prepara l'uscita di Capitan America 3 il 6 maggio 2016 e, guarda caso, la DC Comics manderà in sala il suo Batman Superman nello stesso giorno. Io vi dico la verità. Ritorno un po' bambino quando guardavo i fumetti in TV. Super Bull! I fumetti in TV, i fumetti in TV, i fumetti in TV, i fumetti in TV, i fumetti in TV, i fumetti in TV. Ragazzo, canzoniere di oggi. Qual è il canzoniere di oggi? Pietrangelo? Mi attraggono i luoghi dove sono vissuto in passato. Le case, i quartieri. C'è per esempio un caseggiato signorile in pietra arenaria a Rossiccia, dove, poco dopo lo scoppio della guerra, ebbi il mio primo appartamento newyorkese. Mix 24 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, gli sms. Professor Simonelli, buongiorno. Allora, buongiorno. Buongiorno, dov'era il canone ieri sera? Ha visto che il Sole 24 Ore oggi ha incominciato a introdurre il dibattito serio sull'appuntamento del 2016, vuol dire che questo problema del canone non è poi un problema così banale. Allora, dov'era intanto ieri sera? Proviamo a sentirci una cosa di qualche anno fa, così. Nemico politico, questo è il momento drammatico. D'Alema, rispondi, non ti far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi. D'Alema, di una cosa di sinistra, di una cosa anche non di sinistra, di civiltà. D'Alema, di una cosa, di qualcosa, reagisci. Ma allora, che cos'è questo? Questa è una vecchia storia di Moretti che parla con D'Alema, no? Quando ancora. D'Alema è lì. Ma il problema è questo: in questa settimana, e poi me lo confermeranno, mi smentiranno gli amici lì che di politica sanno più di me, è cambiato completamente lo scenario della politica italiana. Il problema non è più dire delle cose di destra o di sinistra, ma mi sembra che qualcuno ha fatto delle cose su cui si può dare già un giudizio. Allora, che cosa succede in questo nuovo scenario? Siccome ieri sera, il giovedì sera, è la serata dei talk politici, sì, mi sono messo a controllare chi ha capito che è cambiato lo scenario e chi invece continua a comportarsi come se nulla fosse successo. E allora? E allora Vespa, per esempio, è difficile che riesca a cambiare la sua liturgia. C'è una sceneggiatura che impone un racconto. È la sceneggiatura di Moretti di parecchi anni fa. Anche Santoro, mi sembrava che ieri sera continuasse a inseguire i parlamentari del PD per capire se ci sono spaccature, a sentire se la Santanchè che ci spiega le contraddizioni in seno al popolo. Mi sembra che ancora una volta l'unica che ha capito e quindi merita il canone è Lilli Gruber, che ieri sera ha messo a confronto un ministro del governo e due giornalisti non particolarmente favorevoli al governo, una giornalista del Sole 24 Ore e un giornalista del Fatto Quotidiano. Lì è cambiato tutto. È cambiato perché si parlava delle cose fatte e di quanto queste cose sono di destra. E chi era il ministro? Io non l'ho visto ieri sera. Il ministro era Martina e devo dire che mi sono sorpreso dalla capacità di Martina di sostenere questo dibattito dicendo cose molto precise. E quindi il canone ieri sera era sulla 7, questo mi sta dicendo. Sulla 7 fino alle 21.10, poi è scomparso perché Santoro, ahimè, anche lui ha continuato con la sua vecchia organizzazione, indubbiamente affascinante, spettacolare, ma mi sembrava ancora un passo indietro rispetto alle novità di questa settimana. Insomma, era un faccia a faccia illustrato, diciamo, quello di... Canone a Lilli anche questa settimana. Va bene, canone a Lilli. Una cosa, Lilli Gruber ha fatto una cosa quasi geniale, è riuscito a contestualizzare in quel... l'ambiente in cui non c'entrava nulla, la vera notizia della giornata, che era quella dei 24 chili scoperti di cocaina, scoperti alla signora detta la Dama Bianca, e ha tirato questa notizia che era appena stata diffusa dai telegiornali ma senza commentare, facendola commentare al ministro, chiedendo: ma senta ministro, questa signora che era amica di Berlusconi, insomma, com'è questa faccenda? Voi siete amici di Berlusconi, ma Berlusconi è cambiato o non è cambiato? Mi è sembrato assolutamente sull'attualità, ma soprattutto capace di cambiare il passo, come si dice. Mario, tu dove l'hai visto il canone ieri sera? Se hai guardato la televisione? No. Niente TV ieri, era... scrivevi? Ieri ero impegnato sulla deflazione. No, l'Apocalisse. Rileggendo una lettura critica dell'Apocalisse. Ah, ne parleremo allora. Sì, credo di sì. Pietrangelo Lili Gruber, dove ho notato nel punto di Pagliaro è stato fatto accenno e riferimento alla bellissima inchiesta di Salvatore Merlo sulla Terra dei Fuochi. Quindi guardavi la televisione? Guardavo 8:30, professore? E quindi dopo non ce n'era più di canone? Dopo mi sembra che dopo sparisce, è difficile poi trovarlo il giovedì. Sparisce il canone, ma arriva la vincitrice del canzoniere. Chi è la signora? Non ho il nome. Sandra. La signora Sandra da Trento. Buongiorno signora. Buongiorno a voi e complimenti. Grazie. E allora signora, qual è la risposta? Colazione da Tiffany. Giusto! Bravissima. Di Truman Capote. Un Feltrinelli. Ha vinto signora, grazie. Grazie a grazie. Voi e buon proseguimento. Grazie. Ancora. E intanto Sara Tardelli ha intervistato Marco Bagliani, che è il conduttore di Camerini, che è un nuovo programma di Sky che entra nel luogo più intimo e impenetrabile degli attori, i loro camerini. Marco Bagliani, tu sei un attore, uno scrittore, un regista, ma adesso conduci Camerini, che va in onda su Sky Arte. Sì. Di che cosa parla? Parla della mia voglia e curiosità che ho da sempre, da quando ho cominciato a far teatro, di scoprire cosa succede in quel posto misterioso e magico che sono i camerini. So cosa succede a me, però agli altri colleghi attori è un mistero, perché lì noi entriamo portandoci la vita di tutti i giorni e poi da lì in poi usciamo e quando usciamo lì siamo altri. Mi ha incuriosito sempre tanto questo sdoppiamento. Ne hai seguiti e documentati tanti. Sì. Accorsi, sì. Favino, Pierfrancesco Favino, Pippo Del Bono, Emma Dante, Ferdinando Bruni, ognuno diversi. Ma qual è la magia del teatro? Provi a raccontarla. Ma io è proprio lì il sentire che la mia trasformazione sta trasformando anche gli spettatori. Non succede sempre, devo essere sincero, succede quando hai azzeccato lo spettacolo giusto e sei riuscito a costruire una poetica perfettamente coerente con quello che avevi intenzione di fare. È come quando uno fa un sogno e mentre sogna sa che sta sognando. Questo è, quando accade questo è veramente strepitoso. Quanto è difficile portare il teatro in TV? È molto difficile perché uno spettatore a teatro ha un occhio poliedrico, non ha un solo occhio come quello della camera. Per cui soprattutto in spettacoli complessi, come sono quelli belli, insomma quelli in cui accadono più cose contemporaneamente, uno spettatore vede tante cose, per cui la televisione è sempre un limite, è un problema di investimenti. Sembra quasi che non si stia un po' riscoprendo il valore del teatro in televisione. Diciamo che c'è più interesse, e questa è stata proprio la televisione a far sì che accadesse, più interesse verso le persone che verso i personaggi. Cioè il teatro lo vuol vedere, ma vuol capire anche chi c'è dietro a questo personaggio che sta vedendo. Sono affascinati dagli autori, dai teatranti, dagli attori, e la televisione ti permette una vicinanza che forse non avresti nella tua città, perché magari quello spettacolo non è arrivato da te, o per comunque non ti va di uscire, o comunque non ti va di spendere quei soldi. Grazie mille. Grazie a te. Ecco, oggi per la storia Marina Milone ci propone un omaggio a una grande coppia in scena e nella vita. Paolo Panelli, Bice Valori, due giganti della commedia italiana, e per finire una sua intervista Enrico Montesano, amico e collega della coppia. Sara? Ci lasciamo con una canzone? E lasciamoci con una canzone. Per il weekend? Va bene. Happy. Yeah.